Affronzo, che non sei altro. La bagassa mamma tua. Perché lo sai? Allora, finisci la carro di coglioni, eh? Ma perché non vai da quella grande bagassa mamma tua? Perché questa notte ti pongo di telefonate, capito? Un po' fresco di